Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:16 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio, l'ultimo per questa settimana. E allora di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del carrello della spesa in questo Natale di austerità, anche se, se non ricordo male, anche lo scorso Natale non è stato proprio un Natale ricchissimo, ma quest'anno purtroppo abbiamo ulteriori argomenti per essere preoccupati. Lo facciamo alla luce di alcuni dati che ieri ci ha fornito l'Istat, e mentre andiamo in onda l'Istat ci fornisce ulteriori fotografie per quel che riguarda i consumi e le famiglie italiane. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Quindi parleremo dei prodotti alimentari, di quello che andrete a comprare, di come si comporrà il vostro carrello per le feste e non solo. Consigli, dubbi e tutto il resto chiedete, perché come sempre avremo con noi ospiti illustri, appunto ospiti che potranno aiutarci. Prima di tutto in studio con me saluto Stefano Crippa, che è responsabile area relazioni esterne di Feder Distribuzione. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mentre collegati telefonicamente Ivan Nardone del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA Nazionale, buongiorno. Buongiorno a lei. E Antonio Longo, che è presidente del Movimento Difesa del Cittadino, che è collegato con noi da Bruxelles, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, però, prima di addentrarci nel nostro tema, come sempre andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati quest'oggi. C'è un certo nervosismo, soprattutto nelle ultime due ore. In questo momento Parigi e Francoforte hanno invertito la rotta, meno 0,27% per quel che riguarda il CAC 40, mentre il DAX di Francoforte cede uno 0,11%. Londra guadagna uno 0,66%, Milano riduce notevolmente i guadagni. In questo momento il FTSE MIB è in progresso dello 0,17%, mentre il FTSE All Share è poco al di sopra della parità. Lo avete sentito anche nel nostro GR, la notizia dell'agenzia di rating Fitch, che questa mattina ha declassato 6 delle principali banche mondiali, motivando questa scelta con le crescenti difficoltà nei mercati finanziari. Gli istituti colpiti sono Bank of America, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank e Credit Suisse. È stato invece confermato il rating di Morgan Stanley, Société Générale e UBS. Per quanto riguarda il listino principale a Piazza Affari, il miglior titolo è il Banco Popolare, in questo momento guadagna il 5,67%. Sì, 5,67%. E gli obbligazionisti hanno approvato le modifiche al regolamento. Il secondo miglior titolo è Fondiaria Sai, più 4,72%. Rimbalza il titolo dopo la caduta di ieri sull'ipotesi anche di un intervento di Clessidra e altri fondi, e quindi ha preso un po' la rincorsa. Il titolo di Fondiaria è arrivato a guadagnare anche oltre 5 punti percentuali. Bene anche Mediobanca, più 4,64%, UbiBanca più 4,49%. In evidenza anche Fiat Industrial, che guadagna il 2,27%. In fondo al listino invece troviamo Pirelli, che cede l'1,75%, Gioacche Buzzi Unice meno 1,48%, Eni cede un punto percentuale, mentre Tenaris cede lo 0,83%. Per quel che riguarda i cambi, sempre sotto pressione euro su dollaro, 1,30,29 in questo momento. Questo per quanto riguarda i mercati. Noi invece appunto ci dedichiamo al tema di oggi, il carrello della spesa in questo Natale, che cosa e soprattutto con quali prezzi troveremo i prodotti nei supermercati, nei mercati, a che cosa dobbiamo attribuire rincari, e parleremo anche evidentemente dei rincari che verranno, perché purtroppo non finisce qui, ci saranno poi nei prossimi mesi anche gli effetti di questa ultima manovra. Prima però la nostra scheda. Non si preannuncia un Natale spensierato, almeno dal punto di vista del portafoglio, per le famiglie italiane. I tempi difficili della crisi e dell'austerità si fanno sentire nelle spese quotidiane e certamente andranno a pesare al momento degli acquisti per i giorni di festa che sono alle porte. A dare l'idea di un quadro sempre più preoccupante ci pensano i dati dell'Istat sull'inflazione, da cui arriva la conferma che i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai cittadini del bel paese sono aumentati. Crescono dello 0,4% su base mensile e del 4,2% rispetto all'anno scorso. Si tratta della crescita più elevata dal 2008. Il carrello della spesa, insomma, è sempre più caro e fa la sua parte anche l'aumento dell'IVA, deciso dal precedente governo. Con i prezzi che crescono ci si aspetta, in parallelo, una discesa dei consumi. Secondo le previsioni del Centro Studi di Confindustria, la spesa delle famiglie aumenterà dello 0,6% nel 2011, in rallentamento dal più 1% del 2010, e per il 2012 è attesa una diminuzione dell'1%, cui seguirà un recupero dello 0,4% nel 2013. Le famiglie continueranno tendenzialmente a mantenere le proprie abitudini, prestando però maggiore attenzione agli acquisti in offerta e rinviando il rinnovo dei beni semidurevoli e durevoli. Certo, sarà più difficile mettere da parte qualcosa. La propensione al risparmio ha raggiunto all'inizio del 2011 il minimo storico, 11% del reddito disponibile lordo, 6% al netto del deprezzamento del capitale. Il quadro, ben diverso da quello che si può osservare in Francia e Germania, dà un ulteriore indizio della difficile situazione italiana e, in vista delle ultime frettolose visite al supermercato, rende ancora più evidente la necessità di fare una spesa attenta e consapevole, evitando i rischi e le brutte sorprese. Lo dicevamo poco fa, aprendo il programma, proprio mentre andavano in onda le prime battute di Salvadanaio, le agenzie battevano notizie per quanto riguarda l'annuario dell'Istat e, come dicevamo, non solo questo sarà un Natale di austerità, ma anche lo scorso non è stato proprio un Natale ricchissimo, tant'è che ci racconta l'Istat, la spesa delle famiglie italiane nel 2010 è aumentata di appena 11 euro rispetto al 2009. Raggiungendo i 2.453 euro medi al mese. Questo appunto è quanto rileva l'Istat, spiegando che la spesa incorpora anche l'inflazione. I consumi nel 2010 sono quindi al palo, con gli italiani costretti a stringere la cinghia, cosa che purtroppo, mi viene da dire, succederà anche poi facendo il rendiconto di questo 2011 che si avvicina alla fine. E allora subito chiedo, perché è in studio con me, a Stefano Crippa, se anche voi che riuscite a toccare con mano i consumi, visto che siete rappresentanti della Federdistribuzione, chi viene da voi, i comuni cittadini che si riforniscono nei supermercati e quant'altro, vi danno l'idea di quanto riescono a spendere? Assolutamente sì, come giustamente dice lei, noi viviamo sulla nostra pelle direttamente gli effetti dell'economia sul portafoglio delle famiglie. Da noi entrano circa 60 milioni di persone ogni settimana e quindi il polso è assolutamente presente, e purtroppo naturalmente non possiamo che confermare un pochino quelli che sono i dati dell'Istat. In questo momento le famiglie sono molto molto attente nella spesa e quindi realizzano sostanzialmente un carrello che cerca di essere molto razionale. Noi per esempio stiamo notando come siano molto attenti alle promozioni. Le offerte che vengono fatte nei punti vendita sono accolte con grande favore e effettivamente questa è una opportunità comunque che le famiglie hanno per riuscire a districarsi un po' in questo momento nel quale effettivamente i prezzi sono in crescita. Tenete presente che ormai, facendo la spesa in un supermercato, circa un terzo dei prodotti che si acquistano sono prodotti in promozione e lo sconto medio che viene proposto in questo momento, quando ci sono le promozioni, addirittura superiore al 30%, quindi muovendosi con oculatezza si riesce comunque a fare una spesa intelligente, una spesa che cerchi di mantenere il tenore di vita che la famiglia ha sempre avuto. E anche per il Natale noi prevediamo che le cose proseguano in questo modo. Il Natale è uno dei periodi nei quali le intensità promozionali sono più alte in tutto l'anno, e noi prevediamo che anche quest'anno le aziende della distribuzione andranno incontro al consumatore cercando di offrire questi prodotti a prezzi buoni, insomma, che cerchino di mantenere il loro potere. Poi torneremo sicuramente sulle offerte, perché è nostro dovere anche fare un po' l'avvocato del diavolo, e sicuramente gli altri ospiti ci aiuteranno anche in questo, perché a volte ci sono, come dire, dei prodotti civetta che possono un po' ingannare, ma ne parleremo poi nel corso della trasmissione, anche per dare dei giusti consigli a chi ci sta ascoltando. A proposito ancora dei dati Istat, ieri il dato sull'inflazione, un'inflazione che sostanzialmente si mantiene stabile anche se alta, ma che in particolare invece bastona il carrello della spesa, e cioè il raggruppamento dei prodotti acquistati con più frequenza, quindi dal cibo ai carburanti, registra un aumento annuo del 4,2%, superiore a quello del mese di ottobre, e registra anche un aumento mese su mese. Questi aumenti, e questo è una domanda che rivolgo sia al dottor Nardone sia poi al dottor Longo, derivano dall'IVA, derivano anche soprattutto anche dall'aumento delle materie prime, che per quanto riguarda gli agricoltori diciamo è qualcosa che subite. Per quanto riguarda gli agricoltori, sicuramente da cittadini entriamo anche noi nei supermercati, vediamo insomma che, come ricordavano prima, c'è tante offerte, le persone fanno sempre più riferimento alle offerte e sono molto oculati nella spesa. Vediamo però anche che dei prodotti agricoli hanno dei ricarichi estremamente elevati, sicuramente di fronte a quanto vengono pagati all'origine dagli agricoltori, perché agli agricoltori sicuramente negli ultimi tempi sono aumentati tantissimo i prezzi delle materie prime, come quelli derivanti dal petrolio, azotati, costi energetici, sono aumentate le sementi, sono aumentati i mangimi, ma non è aumentato la parte che gli entra dalla vendita dei propri prodotti. Anzi, il settore agricolo in questo paese, soprattutto in questo paese, soffre tantissimo in questo periodo, e quindi, perché non ti spiega come mai vengono vendute le carote a 10 centesimi e le ritroviamo a 1 euro sulla grande distribuzione, i mandarini a 15 centesimi e li troviamo sotto Natale anche a 2 euro. Sì, quello degli agrumi poi è un argomento particolare che è meglio non aprire, se no dovremmo entrare poi in tutta una disquisizione anche a livello europeo, è meglio lasciare lì il discorso. Comunque il concetto è chiaro, io però devo chiedere al dottor Longo, dal quale ovviamente voglio un parere a questo proposito, di aspettare per qualche istante con noi. Noi diamo la linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo. Salva Danaio. Le 12:34 minuti, e allora ci ritroviamo in studio per parlare del carrello della spesa sotto le feste natalizie. Che cosa troveremo nei supermercati, nei mercati, nei punti vendita, a quali prezzi, a che cosa dobbiamo stare attenti? In questo momento purtroppo abbiamo un problema con la linea telefonica con il dottor Longo, perché proprio a lui, che è il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, volevo chiedere qualcosa di più in merito al decalogo natalizio che hanno stilato per i consumatori, per una spesa consapevole, assieme al comando dei carabinieri, delle politiche agricole e alimentari, attraverso i nuclei antifrodi e il movimento appunto Difesa del Cittadino. Intanto vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24, 349 238 6666. Allora, abbiamo parlato poco fa con il dottor Nardone anche di quelli che sono purtroppo i prezzi che si riversano sul prodotto finale. C'è stato un aumento molto consistente per quel che riguarda le materie prime, che colpisce gli agricoltori, e poi li colpisce due volte, anche perché poi sono anche consumatori, e colpisce ovviamente anche tutti gli altri. L'aumento dell'IVA, che questo nell'ultimo mese a novembre si è fatto sentire un po' meno rispetto a ottobre, ma che comunque c'è, e che poi chissà che cosa accadrà nei prossimi mesi, perché c'è sempre in agguato un ulteriore aumento dell'IVA che si riversa sul prodotto finale. Ma vediamo con il dottor Crippa a questo punto di tornare su quello che troviamo sugli scaffali, perché lei appunto diceva ci sono soprattutto sotto le feste, ma io ho notato da consumatrice tante offerte nel corso di tutto l'anno, perché poi ultimamente devo dire, anche perché guardo anche, sarà per una deformazione professionale, anche nel carrello degli altri, guardo anche quello che gli altri comprano e vedo che comunque la gente si orienta anche molto proprio a seconda delle offerte, cioè decide che cosa mangiare anche a seconda di quello che si trova appunto in offerta piuttosto che non in offerta. Allora le chiedo, sotto Natale, ovviamente anche voi avrete delle linee guida per, la metto così un po' dura, ma vediamo di capirci, per non ingannare il consumatore che viene da voi, no? Per comunque avere un rapporto corretto e leale, che tipo di offerte, perché poi ovviamente il vostro è un guadagno sulla quantità e quindi l'offerta è per cercare di portare quindi maggior guadagno al punto vendita. Sì, se la domanda è quali sono le offerte che vengono realizzate nel periodo di Natale? Diciamo che tipo di su che cosa puntate per cercare di portare il cliente poi sostanzialmente a spendere di più, anche se diciamo spendendo meglio, ecco. Guarda, il discorso delle promozioni è un discorso molto importante nelle politiche commerciali delle aziende, perché non è tanto una scelta fatta per far spendere di più. Una volta si organizzava una promozione al mese all'interno dei punti vendita, adesso praticamente la promozione è continua, quindi in tutte le categorie merceologiche, se lei in qualsiasi momento del mese o dell'anno va in un punto vendita, trova sempre il prodotto in promozione. Questo perché è diventato proprio una strategia commerciale da parte delle imprese per cercare di aiutare le persone nel mantenere il loro tenore di vita. Quindi facendo qualche passo avanti verso diciamo un acquisto razionale, c'è sempre la possibilità, qualsiasi sia il tuo carrello della spesa, di comprare un prodotto in promozione con sconti, appunto, che abbiamo visto essere molto importanti. Quindi non è un fatto diciamo legato al far spendere in più, perché in questo momento il potere d'acquisto delle famiglie è quello, cioè non è difficile attraverso le promozioni farli spendere in più. Quello che noi vogliamo cercare di fare è dare a tutti un'opportunità per cercare di mantenere il proprio tenore di vita e le proprie abitudini d'acquisto. È chiaro che nel periodo natalizio queste promozioni si concentreranno su quelle che sono le abitudini di acquisto delle famiglie in questo periodo, quindi i prodotti necessari per il momento conviviale, cioè, e quindi il pranzo, la cena, certo. Quindi questo tipo di prodotti, quelli particolari di ricorrenza, ma anche quelli per i piccoli regali. Io credo che pur in questo momento di difficoltà delle famiglie, di crisi, il Natale è un momento importante, sia fondamentale cercare di dare la possibilità anche in questo caso di non perdere la ritualità del Natale. Quindi cercheremo di offrire anche la possibilità di fare degli acquisti proprio per dei regali a prezzi molto convenienti e quindi con piccoli oggetti magari proprio per cercare di far mantenere le tradizioni. Quindi in Natale, diciamo, il discorso promozionale si orienterà in questo, cercare di far mantenere alle famiglie la ritualità del Natale, la tradizione, quindi non trasmettere un ulteriore elemento di negatività legato al fatto che quest'anno c'è il Natale, non posso permettermi di fare regali a nessuno. Certo. E quindi che tristezza, oltre a tutto il resto che già arriva. Certo, la mia era una domanda poi finalizzata a una successiva, perché su un sito, attraverso poi la segnalazione del dottor Longo, che mi spiace non riusciamo a contattare, abbiamo evidentemente una difficoltà sulla linea, un consumatore ha segnalato che addirittura in un supermercato si è trovato di fronte a un prodotto che era molto simile a un panettone, ma sulla confezione, che è diciamo della stessa forma, non c'era scritto panettone ed era venduto a un prezzo proprio irrisorio, ovviamente per cercare di attirarlo anche su altri prodotti. Questo è un modo diciamo appunto ingannevole di trattare il consumatore, cioè si inganna proprio sul prodotto natalizio. Beh, è chiaro, allora il singolo episodio non lo conosco e poi naturalmente non è difficile. No, certamente, però ecco. Però io devo dire che in questo momento, proprio per quello che dicevamo prima, cioè proprio per la continuità del discorso promozionale, per la strategia che questa leva ha per le aziende della grande distribuzione, Sicuramente io credo che il consumatore si possa avvicinare al prodotto promozionato con grande fiducia, non c'è assolutamente, non dico neanche la volontà, ma anche il caso che possa essere tratto in inganno da un discorso promozionale, perché ormai sono diventate troppo importanti per noi, per voi stessi, quindi non rischiate, diciamo, su questo tipo di, assolutamente, di discorso. Teniamo presente che molto spesso anche sui prodotti a marca dell'insegna si fanno le promozioni, quindi la marca dell'insegna è proprio il momento nel quale l'insegna distributiva mette la propria faccia nei confronti del consumatore, e figuriamoci se in questo processo di fiducia che si sta cercando di costruire, poi nel momento in cui si fanno le promozioni si rischia di rompere questo rapporto così delicato che ci lega appunto al nostro cliente. Dottor Nardone, diciamo che nelle semplificazioni più comuni si dice che per quel che riguarda i supermercati sono più convenienti sui prodotti che sono già confezionati, inscatolati, mentre per quel che riguarda frutta e verdura è più conveniente recarsi al mercato, comunque non so, dal contadino se uno ha possibilità. Come vi state muovendo anche da questo punto di vista? State cercando di implementare questo tipo di vendita, di distribuzione, anche e soprattutto in un momento così difficile dal punto di vista dei prezzi, che quindi al mercato o direttamente da colui che produce è possibile ottenere anche un prezzo migliore? Ovviamente l'organizzazione lavora molto dal punto di vista della vendita diretta in azienda, perché è un percorso importante per il produttore, per il consumatore, si intreccia, si vede l'azienda, si visita, si fa in qualche modo vita agricola, anche un percorso che spesso supera il carattere strettamente commerciale, e tutto ciò ovviamente noi pensiamo di incrementarlo e di aumentarlo, e questo però non significa che cercare di fare alternativa alla grande distribuzione, che resta per il mondo agricolo uno strumento vitale, uno strumento importante soprattutto per i volumi che rappresenta, ecco. Allora, io a questo punto volevo introdurre un altro argomento che mi sembra importante soprattutto in questo momento, che è quello delle etichette e di conoscere bene il prodotto che si va a comprare, perché a volte quando magari uno non ha tempo, insomma, si reca al supermercato un po' di fretta, non presta attenzione. Invece una buona norma, non solo sotto Natale, ma anche per quanto riguarda tutto il resto dell'anno, è importante sapere, e mi sembra un buon consiglio dare delle indicazioni precise, dottor Crippa, a proposito proprio delle etichette che ci sono sui prodotti, perché devono avere anche, come dire, dei canoni precisi, cioè uno ci deve trovare qualcosa dei punti fermi in queste etichette. Certo, sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto lei. Tra l'altro noi ci rendiamo conto di quanto l'acquisto da parte del consumatore sia sempre più consapevole, quindi come la trasparenza nei suoi confronti sia un elemento che diventa assolutamente sempre più importante. La lettura delle etichette è naturalmente fondamentale, perché appunto lì c'è la storia del prodotto e si riesce ad avere più informazioni rispetto a quello che può essere semplicemente una visione del prodotto passando di corsa dallo scaffale. Tra l'altro c'è una nuova norma che arriverà dall'Europa sul contenuto delle etichette, sulla quale anche lì non siamo molto favorevoli, perché definisce alcuni elementi nuovi che devono essere inseriti nelle etichette: il contenuto nutrizionale, il fatto stesso che le etichette non possono essere scritte con caratteri più piccoli, gli allergeni, eccetera. Quindi tutta una serie di considerazioni importanti che aiuteranno anche in questo caso il consumatore a scegliere. Quindi l'acquisto consapevole assolutamente sì, va fatto, l'attenzione alle etichette è uno degli elementi importanti per fare questo acquisto consapevole. Saluto Silvia Biasotto, che è responsabile del Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino, che ha curato il decalogo di cui vi parlavo poc'anzi, decalogo natalizio per i consumatori per una spesa consapevole. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, salve. Però le devo subito chiedere di avere qualche istante di pazienza, perché noi dobbiamo dare la linea alla viabilità. Ci risentiamo tra pochissimo. Salva Danaio. Allora, dottoressa Biasotto, visto che lei ha curato questo decalogo per quel che riguarda i consumatori, per una spesa consapevole sotto le feste, ce ne vuole dare un breve affresco, tanto per capire un po' di che cosa stiamo parlando, dove lo possiamo trovare e che cosa ci troviamo dentro? Sì, l'ho curato io insieme al nucleo antifrodi dei Carabinieri delle politiche agricole, grazie quindi alla loro competenza. Essenzialmente tre consigli generali che riguardano quello di leggere sempre l'etichetta, importantissima anche per i prodotti tipici natalizi, conoscere e avere fiducia anche nei confronti del venditore dal quale ci stiamo recando e diffidare anche dei prezzi troppo bassi e troppo alti. Cosa significa? Facciamo l'esempio del panettone di Pandori. Per questi prodotti una vera e propria legge, un decreto ministeriale, stabilisce quale debba essere la ricetta per tutti, per quelli industriali e per quelli artigianali. Quindi diffidiamo di prodotti, ad esempio industriali, venduti a 2 euro, ma anche di prodotti artigianali che possono valere anche 30 euro. Insomma, se vogliamo risparmiare, comprare un buon prodotto industriale, un panettone o un pandoro industriale, può valere la pena. Come possiamo giudicarlo? Leggere l'etichetta, soprattutto gli ingredienti. Essenzialmente ci devono essere farina, uova fresche, attenzione, non ovo prodotto, ovvero le uova utilizzate, sì, burro, non margarina e uvette canditi per un minimo del 20%. Allora, bisogna anche farsi un po', come dire, essere un po' informati proprio sul prodotto stesso che stiamo scegliendo per capire anche l'etichetta che andiamo a leggere. Un ascoltatore, Roberto della provincia di Parma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signora Valeria, ecco, io volevo intervenire dicendo che sì, siamo in una situazione economica drammatica, però ci sono dei vantaggi che 30 anni fa erano inesistenti. Il panettone, per esempio, si compra meno del pane e così tanti altri prodotti. Però io dicevo, magari, perché uno che abita in un paese magari con pochi abitanti, così certe offerte non le conosce neanche, magari sarebbe mica meglio, volendo, invece di fare le promozioni, abbassare leggermente i prezzi complessivamente sempre, perché si prendono i prodotti giustamente a poco più di metà prezzo, ma delle volte non si sa che c'è l'offerta, ecco, quello volevo dire io. Allora, questa è ovviamente un'osservazione che giro subito al dottor Crippa, visto che è lui responsabile, in questo momento parla a nome di Federdistribuzione e abbiamo parlato delle offerte, mi sembra giusto che sia lei a, come dire, a osservare. Sì, dunque dicevamo appunto che le offerte sono un elemento fondamentale, devo dire anche che tutte le insegne distributive fanno il massimo sforzo possibile per diffondere la conoscenza su tutte le promozioni che ci sono. Noi solo sulla parte alimentare distribuiamo più di 3 miliardi di volantini per far conoscere, quindi ciascun punto vendita ha un suo bacino nel quale distribuisce, certo, e quindi cerca di portare a conoscenza di tutti. E tra l'altro questo diventa proprio un elemento di scelta anche da parte del consumatore, di informazione, quindi, come dicevamo prima, Però io voglio farle sentire anche quest'altro ascoltatore, Sergio dall'Aquila, perché mi sembra che la sua osservazione possa essere simile, almeno in alcuni tratti, da quanto ci ha detto Roberto dalla provincia di Parma. Buongiorno signor Sergio. Buongiorno a voi. Ci dica. Mi riferisco all'argomento e soprattutto al dottor signor Crippa, perché in effetti non c'è ragione di aumentare il prezzo oppure tenere un prezzo di un certo valore e poi far credere, perché è far credere al consumatore che noi vi tagliamo il 30%. Il 30%, ma perché mai non possono tagliarlo immediatamente? Perché glielo dico io, perché la grande distribuzione è una grande buggeratura. Il cliente deve essere strangolato ad ogni situazione, in ogni situazione. Allora, signor Sergio, a questo punto ovviamente il dottor Crippa deve avere diritto di replica, perché è giusto che sia così. Le chiedo ovviamente di essere breve, perché poi vorrei tornare al dottor Nardone, ci restano davvero pochi minuti. Allora, è chiaro che nel momento in cui c'è una promozione del 30% su un prezzo stabilito è assolutamente impossibile portare la diminuzione del prezzo del 30% per tutto il periodo dell'anno, cioè le promozioni durano 10-15 giorni, quindi sono operazioni che si fanno in questa logica, non si può pensare di poterle estendere sistematicamente durante tutto il periodo dell'anno. La formazione del prezzo di un prodotto poi è un elemento complicato, cioè in questo momento i prezzi effettivamente stanno salendo, le componenti sono moltissime, abbiamo parlato prima delle materie prime, abbiamo parlato dell'IVA, ma pensiamo a cosa sta succedendo sulle accise. Nell'arco del 2011 sui carburanti le accise sono state aumentate 4 volte. Sì. Per diverse motivazioni, ma sono state aumentate, quattro volte, e incidere sui carburanti significa incidere su tutto il trasporto delle merci. In Italia più fra l'80 e il 90% delle merci viaggiano su gomma, quindi è chiaro che questo si ripercuote poi su tutti i prodotti. Aumentano i costi dell'energia, pensiamo che sull'energia che paga un'azienda nell'ultimo anno le tasse sono aumentate del 37%, e questo ha portato un aumento del costo dell'energia per le imprese fra il 6 e l'8%, cosa che andrà avanti anche l'anno prossimo. Quindi ci sono tutta una serie di componenti sulla formazione del prezzo, per cui dire che si possa portare la promozione, lo sconto che viene fatto in promozione tutto l'anno, è francamente un po' una semplificazione sulla quale... Allora, io volevo chiamare in causa ancora il dottor Nardone, perché come raccontavo poco fa al dottor Crippa sono arrivati anche alcuni sms che, come spesso succede, sono diciamo anche in qualche modo cercano di fare una critica in qualche modo costruttiva. Qualcuno ci ha scritto però: viva i cinesi, in particolare questo per quel che riguarda i prodotti alimentari e anche e soprattutto i prodotti agricoli, perché molto sta arrivando sulle nostre tavole da questi paesi e a volte noi non lo sappiamo e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Dottor Nardone, che cosa fare? Lei prima ha dato una risposta utile, che è quella dell'etichetta, di quello: se entrando in un supermercato si leggono le etichette non solo dal punto di vista della data di scadenza o del contenuto di quel prodotto, ma anche se quel prodotto è prodotto da agricoltori italiani o meno, perché attraverso le denominazioni di origine, le DOP, le DOC, le ICT, insomma, si può comprare un prodotto italiano certificato e prodotto con sistemi che all'interno dell'Unione Europea danno sicuramente molte più garanzie dal punto di vista salutistico, dal punto di vista del rispetto delle tematiche ambientali. Però costano di più. Sì, costano di più perché si hanno più garanzie. Benissimo, io purtroppo sono costretta a chiudere, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio in maniera particolare la dottoressa Biasotto, perché ci ha raggiunto in extremis ed è stata con noi per poco tempo, ma l'abbiamo veramente raggiunta al volo. Ringrazio in studio con me il dottor Stefano Crippa, responsabile area relazioni esterne di Feder Distribuzione, collegato telefonicamente il dottor Nardone, il Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA nazionale. A tutti voi l'augurio di un buon weekend. Salva Danaio.